Geo. E sì che poi verranno a dirmi ti fai viaggi strani qua e lì, ma queste qui sono solo rime, niente di più. Studi sull'Hysteria Experience, è un'esperienza personalissima. Nana, non farlo a casa. Mi sono detto, musica a palle, poi passa. Siamo style, pozzi tagliati nella vasca. Posso darti la follia delle mie retine corrotte. Lei di notte sa come farti compagnia. Cose di sto genere non ne ho mai fatte. Flusso, vita l'assente, libra d'oco. Nel vada ci sto, che me lo dicono i miei amichetti negli specchi. Ci gioco finché non c'è pericolo. Dio è dalla mia, in dubbie percentuali. Fino a quando non verso tribute certi. Signori, non ne ho da darne. Me la do a gambe, non una palla. Mi intorno, vedo già troppi campioni, una voce mi parla. Ora la seguo perché se schiolo terra scoppio come una ampolla di vetro. No time, no more, il tempo si è esaurito, non ce n'è, lo dico tra me e me, na, na, na, na. Scende la notte, vago per casa. Scende la notte, vago per casa. Scende la notte, vago per casa. E rista, Morfeo in casa. Alzo la musica ma non mi passa. Alzo la musica ma non mi passa. Alzo la musica ma nel frattempo brucia la mia ciambrilla. My life is like London Bridge. It's falling down, it's falling down. Yeah, my life is like London Bridge. It's falling down, down. It's falling down, down, down, down. It's falling down, yeah, yeah, yeah. Blocco le porte, colloquio col caso. Gioco tre cubi, mi chiamano pazzo. Guardo le nubi, va a fuoco il palazzo. Coglioni furbi che mi stanno sul cazzo. E mo amo d'amore, non ho bisogno. Ho i paradisi artificiali sopra il comò. Sound of paranoia, tristezza e vanagloria. La testa mia fa come quella di Corador. Scende la notte, vago per casa. Scende la notte, vago per casa. Scende la notte, vago per casa. E rista, Morfeo in casa. Alzo la musica ma non mi passa. Alzo la musica ma non mi passa. Alzo la musica ma nel frattempo brucia la mia ciambrilla. E arrivati a questo punto sono giunto ad una conclusione. Ci capiamo dallo sguardo e sono inutili anche le meglio parole. Perché ti capisco se certi fatti prendono anche te. Giù nel fango dei perdenti, un colpo e vado al suolo. Non come i miei fantasmi che sono trasparenti. Che sono trasparenti. Non ce n'è, lo dico tra me e me, na, na, na, na. Scende la notte, vago per casa. Scende la notte, vago per casa. Scende la notte, vago per casa. E rista, Morfeo in casa. Alzo la musica ma non mi passa. Alzo la musica ma non mi passa. Alzo la musica.